No, dalla cognata di cognata Ah, di dici. fratello a casa degli Siamo andati Arini. sabato mattina? Ha freddo, signora. Devo No, chiudere. no, sono tutti un Sabato po' così. mattina, Sabato mattina. una delle prime cose che mi dice la cognata, dice: ah, vedi qua Negra, Ah, sì. volevate dare l'assalto Alle carte, alle sì, carceri dare di liberale. Verona. Io la guardo e dico: ma non è vero, non mi ricordo assolutamente, La cognata di Di Sergio. Sergio. No, la prima cosa che mi ha detto è stata quella. Mi spiace, io non mi La Piera. ricordo. Sì. Sì. Invece la sera vado con, diciamo, il vice d'Acquanegra, no? E quello che andiamo a Casalaube, che era quello che aveva la tipografia, perché si era impiantato proprio bene, eccetera. E loro mi ricordano, dice: sì, Gianni, ti ricordi, eccetera, che noi abbiamo parlato, tentato, poi tu hai dovuto andare via, ma noi siamo andati avanti nei preparativi per dare l'assalto. La risposta ci doveva venire da Mantova, che doveva essere da Tramite, perché non potevamo Ed raggiungere Verona. Ecco, sentire quelli di Verona anche. e sentire quelli di Verona, Si quelli di Mantova si appoggiavano, appoggiavano eccetera. l'azione, no? Poi quelli di Mantova si sono assolutamente Si sono. squagliati. Ora, questo può essere un altro fatto che Giustifica. Si giustifica, insomma, insomma. che non lo so, adesso Sì, sì, io ho sì, messo sì, sì, Rovella, ho sì, messo sì, sì, sì. Mazzolari, eccetera, perché adesso ho messo anche questa cosa, perché per la verità c'è una grossa sproporzione, perché era una provincia abbastanza quieta, vabbè, c'era una intensa relativamente attività cospirativa, ma come c'era in tutta Italia, questo lo sappiamo benissimo, insomma, no? Sono successi scontri, uccisioni, eccetera, non si è arrivata a un tipo di rappresaglia. Nemmeno rappresaglia, perché poi è un po' clandestina, insomma, no? Comunque di azione di questo genere, e quindi c'è una sproporzione tra i fatti. Vabbè, dico, gli assalti possono essere, io credo che ci siano stati 6-7, insomma, no? Poi non è successo niente in particolare, c'è stato un ferito a Acquanegra, ma con un colpo qui sulla testa, che 15 giorni è guarito. C'è stato un altro ferito vicino a Belforte, ma feriti leggeri, roba da guardia medica, insomma, no? Adesso, per verificare, quando dunque, vengono da me il pomeriggio e mi avvisano di scappare perché ci sono gli arresti in corso, no? E questo credo che sia Magni, delle quattro strade, biondo, quello grosso, quello giovane, Quando è stato questo? il Ah, 29 di luglio. luglio. La nipote mi dice che al pomeriggio è arrivata anche lì una staffetta da pompiere, lui non c'era, allora ha detto: mi spiace, ma io parlo con lei, signora, parla con la sorella, dice: pompeo nei pasticci, deve scappare. Pompeo torna e dice: parto domani. E alla notte, alle 2 4 e mezza, alle dopo. 4, E lui dormiva un po' lui proprio. dormiva. L'hanno arrestato. Cioè lui era stato avvisato e ha detto parto domani. Quando Sì, perché lui questo, non partecipava alle no, azioni, non lui. Lui aveva i partecipava. collegamenti. Ora, quando arriva Magni, ma comunque andrò da lui un giorno a controllare, dico: cosa è successo? Dice: è successo, abbiamo fatto le azioni, però c'è qualcosa che non funzionava. Si è intromesso una guardia repubblicana, Gioia di Mantova. Allora l'hanno come sciolta, però sono andati ieri, mi ha detto, ieri, sulla spiaggia dell'Olio, dice, di fronte a Calvatone, e tiravano un po' insieme, erano in 4-5, fra cui Sergio, delle somme. Non si sono accorti, cioè sono andati sul Ciglione, e qui sotto c'era una spiaggia, che sotto sotto c'era la ragazza bionda di San Martino, che ha ascoltato tutto. Di quest'ultima parte che io le ho raccontato, non ha mai sentito niente, cioè dei fatti questi? No. Questo nome Gioia non... Sì, Gioia sì. Gioia non è un nome nuovo. Ma adesso però, non, almeno al momento, non riesco a ricordarmi così questi particolari. Lei non ricorda di aver sentito dire che uno della Guardia Repubblicana aveva detto che lasciava la Guardia Repubblicana e entrava nella squadra di Sergio? No, neanche. Questo non l'ha sentito.